per cercare di gustare, di capire insieme questo brano famosissimo, almeno spero, per me famosissimo, di Nicodemo, Giovanni capitolo 3. Voglio invocare all'inizio di questo discorso, di questa omelia, lo Spirito Santo, perché solo lo Spirito Santo può illuminarci. Vieni, Santo Spirito, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Spero di riuscire a dire tutta la ricchezza che trasuda da questo brano. Anzitutto siamo di fronte a un uomo, Nicodemo, uno dei notabili, uno dei capi dei giudei. E questo è già un fatto singolare. In genere gli intellettuali o quelli che hanno potere in genere sono autosufficienti. È difficile trovare credenti tra gli scienziati, tra gli uomini di medicina, tra gli uomini di politica, potenza. È difficile. Sono autoreferenziali. Quest'uomo invece è un uomo aperto. Gli è capitato di ascoltare Gesù e dice: ma questo qui è un tipo un po' diverso dagli altri. E dice questa frase: nessuno può compiere le cose che tu compi se Dio non è con lui. E questa sarebbe già prima una prima frase da memorizzare anche noi, no? Dio è Dio e gli uomini di Dio fanno cose che il mondo normalmente non fa. Basta vedere i santi. Dunque lui è rimasto colpito un po' da Gesù, però è ancora legato al suo mondo. Vuole incontrare Gesù, ma ha paura di esporsi al giudizio della sua classe potente. E ci va di notte. Cosa direbbero se sapessero che anch'io sono andato dai preti, che anch'io sono andato al catechismo in parrocchia? No, non ci va di notte. E questo è già un insegnamento per noi, perché nel Vangelo c'è una frase molto forte, eh? Dice Gesù: chi si vergognerà di me, anch'io mi vergognerò di lui davanti al Padre mio. Ho sempre in mente, quando accenno a queste cose, due papà ho trovato che mi hanno detto la stessa cosa, quindi che erano andati in ristorante, in pizzeria a mangiare qualcosa e si mettono a mangiare. Il bambino, due casi distinti, il bambino piccolino dice: papà, ma non diciamo la preghiera? Tacchete. A casa si dice la preghiera. Io li capisco, perché anch'io sarei di per sé un po' un vergognoso, sarei uno che ha il rispetto umano. E allora dicono la preghiera, ha ragione il Vangelo: se non ritornerete come bambini, non entrerete mai. Amici, leggiamo il Vangelo e applichiamolo alla nostra vita. È l'unico modo per vivere la fede, sapete. Se no, noi ci illudiamo di conoscere Gesù Cristo, magari di conoscere bene anche il suo Vangelo, ma se non lo facciamo scendere come sale, come pioggia che irrora la terra dentro la nostra vita, non lo vivremo mai. Gesù dà una risposta e dice: sì, fai bene a cercarmi, però ricordati che c'è dell'altro. Bisogna nascere dall'acqua e dallo Spirito Santo. È il battesimo questo, no? Diverso dal battesimo di Giovanni. Questo è un sacramento, bisogna nascere dall'acqua e dallo Spirito Santo. E qui Nicodemo fa la seconda gaffe, risponde con una battuta, cioè fammi capire, se devo rinascere, devo rientrare nel grembo di mia madre per rinascere. Io gli direi, caro Nicodemo, ti è venuta male questa battuta, sai? Ti è venuta male come viene male certe battute che la gente dice al sacerdote, quando magari gli fai presente che la vita evangelica è esigente, dice, ah, ma io non sono santo. A questo mi sono accorto che non sei santo. Ma noi dovremmo proprio diventarlo. Perché Gesù nel Vangelo dice, ma io non sono mica Gesù, per la seconda volta ti dico che me ne sono accorto, ma noi dovremmo imitare l'imitazione di Cristo. Amici, quante volte noi usiamo battute così nel mondo? Dico che devi perdonare, sì, ma io porgo l'altra guancia, e poi giubbotte. Sì, questa è un'altra battutaccia, perché il Vangelo dice devi perdonare non neanche 7 volte, di più, 70 volte 7. Oppure quante volte abbiamo delle battutacce? Reverendo, dobbiamo tutti morire, però speriamo più tardi possibile. Si vede che tu proprio hai il desiderio del paradiso. Meglio questa valle di lacrime, che non la beatitudine. Sì, è meglio di qui tribolati che di là beati. Amici, sono tutte battute che girano in casa nostra, tutte battute che girano tra credenti. Quanti Nicodemo siamo, io con voi. Ma in questa risposta di Nicodemo c'è dentro ben altro. Non so se vi siete accorti. Nicodemo risponde da perfetto materialista. Devo rinascere? Devo entrare in mia madre? E Gesù gli risponde, ciò che nasce dalla carne è carne, ciò che nasce dallo spirito è spirito. Devi entrare su un altro livello. E qui, amici, noi siamo proprio ancora dei dilettanti. Quante volte noi affrontiamo la vita, affrontiamo le risposte ai problemi della vita in termini materialistici. Questo sarebbe interessante, perché c'è il rischio, amici, che noi non siamo cristiani, che noi siamo delle brave persone. Speriamo dei buoni cittadini, ma il cristiano è un'altra roba. E la Chiesa, se non sta attenta, intendo la Chiesa dai suoi vertici a noi, che pure siamo Chiesa, se non stiamo attenti, scegliamo sempre delle cose materiali e non tanto quelle spirituali. Vi faccio 2 esempi. Si parla di ecologia. Per fortuna abbiamo un Papa non solo intelligente, ma santo, cristiano, che ti dice, amici, l'ecologia è essenziale per l'uomo, ma deve essere un'ecologia integrale, che tiene conto delle foreste, che tiene conto delle acque, ma che tiene conto anche della coscienza dell'uomo, che tiene conto anche dello spirito dell'uomo. Quante volte noi facciamo scelte buone, benedette, ma materiali, solo materiali. Sull'ecologia ci troveremo tutti d'accordo. Ci troveremo tutti d'accordo che l'aborto è un omicidio? Eppure dal 18° giorno, mi dice la scienza, in cui una donna ha concepito, si può auscultare con gli strumenti medici il battito del cuore. Amici, quante volte noi siamo prontissimi a fare campagne per la raccolta di soldi, di cibi, un po' meno al giorno d'oggi, ma per gli altri, ma il tempo non siamo tanto pronti a darlo. Eppure deve essere materia e spirito, acqua e spirito. Cari cristiani, abbiamo bisogno di studiare la nostra fede, non solo di rispondere a battute. Quante volte sarà capitato anche a voi con i vostri amici di lavoro o conoscenti o a tavola di rispondere sulla fede: ma dov'è Dio in questa pandemia? Ma perché il Vaticano? Ma perché il mio prete? Ma perché... Amici, dobbiamo rinascere dall'acqua, dalla terra e dallo spirito. Ma perché se noi facciamo una festa, una mangiata, anche nelle parrocchie, è facile che ci troviamo numerosi. Se io faccio l'adorazione eucaristica la domenica pomeriggio, se io vi guardo in faccia non so quanti di voi vengono. Il materialismo, amici, invade la nostra fede.